5B. Ascolta e trasforma. Ieri la ragazza era malata. Ieri le ragazze erano malate. Lo studente era in vacanza al mare l'anno scorso. Gli studenti erano in vacanza al mare l'anno scorso. La signorina era in biblioteca un'ora fa. Le signorine erano in biblioteca un'ora fa. Il professore era raffreddato ieri. I professori erano raffreddati ieri. Il dottore era nervoso stamattina. I dottori erano nervosi stamattina. La professoressa era occupata ieri. Le professoresse erano occupate ieri.